che mi ha fatto lo scullare, eh? Coglione! E quella grande bagasse mamma tua! E domani mattina ti piombo di telefonata a casa tua, capite? Finito di parlare, capito? Froscio! Nuovo, eh? Froscio! Quello che domani ti squilla il telefono per non preoccupare. Capisco come è attaccato stanotte. Domani ti piombo di telefonata come faceva l'auto. Vedrai che prima o poi ti accretti, drogato. Vedi quel tuo numero? 24-3364, lo dico a tutta la frequenza il tuo numero di telefono, così rompono i coglioni a tua madre, capito? Rompono i coglioni a tua madre, brutto coglione drogato! Appunto, perché sono froscio, 24-3364, 24-3364, parla a voce bassa, non credi che non ti riconosco, froscionato, drogato, fuga la bagaglia a tu e non truffare. Domani il 24-3364, capito? Lo vedi come ero io? Tu hai detto che cambiavi numero, invece tua madre ha detto che me lo devo cambiare io, allora ti piombo di telefonare, prima o poi tua madre si deciderà, no, di togliere quel cazzo di barchi.